giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Una società cresce alla grande quando i vecchi piantano alberi alla cui ombra sanno che non siederanno mai. Proverbio greco. Buon pomeriggio anche da parte mia, bentrovati nel giardino di Radio 24, oggi all'ombra che solo i grandi alberi sanno fare, i cosiddetti patriarchi. Pensiamo ad esempio al castagno millenario in Sicilia, nel parco dell'Etna, che si dice abbia da solo riparato da un temporale una regina e i suoi 100 cavalieri. Alberi monumentali non solo preziosi per la loro età e per il loro aspetto, ma anche fondamentali per gli altri alberi, per le foreste e quindi per noi. Per fare un esempio, il WWF, tra gli altri, si sta battendo per salvare gli alberi di noce del Brasile, antichi patriarchi considerati le sentinelle della foresta amazzonica. Ed è così anche per gli alberi secolari d'Italia, tant'è vero che c'è chi si sta occupando di ottenere cloni o figli di questi giganti per non disperderne il patrimonio genetico. E tra i patriarchi d'Italia abbiamo The Tree of the Year 2020, vale a dire l'albero più amato, eletto ieri in occasione della festa degli alberi. A svelarci di che esemplare stiamo parlando è il presidente di Giant Trees Foundation, una persona che sarà in grado di dirci cosa si prova a rimanere ad oltre 60 metri di altezza, avvolti dalle chiome di organismi che possono avere anche 3.000 anni. Benvenuto all'agronomo e tree climber Andrea Maroè. Buongiorno a tutti. Oh, sono molto contenta di averla ospite in questa puntata del Giardino Segreto dedicata agli alberi il giorno dopo la festa degli alberi. Insomma, dire che lei è un grande conoscitore di alberi è dire poco. Ci vive più che mezzo sopra ormai da anni, e non soltanto di alberi italiani parliamo, perché lei gira il mondo alla ricerca dei giganti. Sì, ormai da quasi 30 anni li arrampico, li cerco, li misuro, e quindi cerchiamo di tutelarli anche conoscendo quelle che sono le loro caratteristiche, sia strutturali sia biologiche, perché poi gli alberi, soprattutto quelli grandi, quelli vecchi, sono i padri della foresta, difendono la foresta e creano e conservano anche la biodiversità. È importantissimo sostenerli. È per questo che in particolare si dedica a questi patriarchi, cioè ai giganti tra gli alberi. Perché sì, sono i padri. Diciamo che nel mio percorso lavorativo, ma anche conoscitivo, ho capito che l'albero vecchio è appunto il padre della foresta, è in connessione con tutta la foresta, e abbattere o perdere gli alberi vecchi in realtà significa perdere buona parte della foresta, ma anche un DNA, un valore di conoscenza che l'albero ha acquisito, che ha mantenuto. Quindi anche tutto quello che gli alberi vecchi sono è sostanziale per il mantenimento dell'ecosistema e della biodiversità, tant'è che appunto anche in Italia uno dei parametri per il mantenimento o per il riconoscimento degli alberi monumentali è proprio il loro valore ecologico, e questa è una importante novità che è apparsa appunto negli ultimi anni. E di cui noi sappiamo pochissimo, perché mentre capiamo l'importanza appunto che può avere un esemplare molto vecchio, secolare se non millenario per noi, insomma per quello che può rappresentare, facciamo più fatica a capire che un albero così importante, che un patriarca, sia in realtà fondamentale anche per gli altri alberi della foresta. Cioè banalmente, possiamo tirar giù un albero vecchio, ci sarà spazio per nuove piante. Invece non è così. No, questo mi è risultato anche proprio platealmente evidente in una delle spedizioni che abbiamo fatto in Venezuela, dove all'interno della foresta equatoriale anche semplicemente l'intervento di abbattimento di un albero grande portava il deperimento circolare della foresta intorno, proprio perché veniva a mancare questa connessione anche a livello di apparato radicale, ma non solo, tra l'albero grande e tutti gli altri alberi che poi sono buona parte sua discendenza, ma anche quelli che comunque convivevano a livello di anastomosi radicali, quindi di connessioni radicali, con il grande patriarca. Quindi abbattere l'albero grande significa far deperire la foresta. L'altra cosa è la straordinaria varietà di abitanti che c'è nella chioma di un albero anziano. La cosa anche qui sorprendente era la terra che noi abbiamo chiamato la terra del cielo, sui rami a 50 metri c'è una terra completamente diversa da quella che c'è sul terreno, sul suolo della foresta, e quindi anche qui ci sono organismi, animali, vegetali completamente diversi di quelli che possiamo trovare al suolo. Attualmente ancora pensiamo che la foresta, la chioma dei grandi alberi, è inesplorata quasi quanto le profondità marine. Quindi gli alberi rappresentano in qualche modo un superorganismo, più che competizione mi viene la parola collaborazione tra loro. Io un refrain che ormai uso negli ultimi anni è che gli alberi non fanno mai la guerra, anche quelli che noi pensiamo siano i loro parassiti in realtà sono dei simbionti. Ecco, questo che lei ci dice non va in qualche modo contro Darwin e la nostra convinzione che l'evoluzione si basi appunto sulla competizione, quindi in base alla legge del più forte, del più resistente, non invece sulla collaborazione, perché anche la filosofia un po' cambia. Sì, certamente cambia, dovremmo cambiare noi il modo di pensare per rapportarci in maniera più delicata, oserei dire più rispettosa, con questi organismi che anche quando abitano nelle nostre città riescono a fare delle cose entusiasmanti. Pensiamo che, appunto, parlavo prima della terra del cielo, ma anche nei nostri alberi vecchi ci sono degli anfratti in cui si forma della terra e ci sono degli insetti che vivono solo all'interno di determinati alberi e di determinati tipi di humus che si è formato tra i rami o nelle conche degli incroci, degli innesti dei rami. Ci sono dei giardini sui rami, dei giardini sugli alberi che nessuno di noi vede, come ci diceva, le chiome dei grandi alberi sono ancora più da scoprire, più sconosciute dei fondali marini, però lei ci è andato e lei ci va su queste chiome, lei sale sui grandi alberi, è un tree climber, sì, come sì. Si dice. Ci racconti, come dice, che cosa ha scoperto? In Italia abbiamo scoperto non molto tempo fa quello che è l'albero più alto d'Italia, una Douglasia piantata nella foresta di Vallombrosa in Toscana. Quasi 63 metri questa Douglasia. Mentre poi invece l'albero più grosso d'Europa l'abbiamo scoperto in Montenegro 2 anni più tardi, ed è un abete bianco, quindi questo è l'albero più grosso autoctono d'Europa, fa quasi 60 metri d'altezza, 7 metri di circonferenza per un volume di oltre 80 metri cubi, e quindi è il 18° albero più grande come specie al mondo. Beh, allora già che ci sono, non posso non chiederle qual è l'albero più alto al mondo. Beh, l'albero più alto al mondo è una sequoia, naturalmente in California, fa 115 metri ed è questa veramente straordinaria. In realtà io ho avuto la fortuna anche di arrampicare quello che è uno degli alberi più vecchi al mondo, quasi 5.000 anni di età, e quando io l'ho arrampicato avevo 35 anni e gli aghetti di questo albero avevano 40 anni, quindi le foglie erano più vecchie di me. Dov'era? Questo è nelle White Mountains, sempre in California, però appunto la cosa incredibile è che noi sappiamo l'età di questi alberi perché intorno agli anni 70 uno studioso ha tagliato uno degli alberi più grandi del mondo per conoscerne l'età, e questo a me ogni volta che ci penso mi fa rabbrividire, perché certe volte facciamo veramente delle scempiaggini senza pensarci troppo in nome magari di una scienza che non è detto che sia sulla strada giusta. Però tante cose le avete scoperte, le state scoprendo, ma al di là dei record, delle particolarità di interesse scientifico, quello che ci piacerebbe capire è che cosa si prova da un punto di vista emotivo, che cosa si scopre anche di noi stessi salendo così in alto sugli alberi. È una domanda molto a cui ho pensato molte volte. In realtà è difficile raccontare che cosa si prova a 60, 70, 80 metri d'altezza su un organismo di 2000, 3000 anni. In realtà la cosa che mi viene più da dire, oltre all'emozione sicuramente enorme che c'è, è la pace che si respira all'interno di questi rami, dove ci si sente accolti. Io sono sempre stato benissimo, non solo nel momento in cui sono stato in cima, ma anche per i giorni successivi, cioè è come se mi avessero riempito di un'energia o di una potenza anche chimica enorme. Questo mi succede anche sugli alberi un po' più piccoli, magari meno importanti, però ecco, su questi alberi dove l'età e la struttura, la grandezza sono incommensurabili, veramente è proprio anche difficile esprimere, cioè ci si siede, ci si ferma, si resta quasi ammutoliti di fronte a questa bellezza che proprio si respira oltre che vederla. perché poi dobbiamo pensare che gli alberi e comunque moltissima parte dei vegetali sono sempre stati usati nella farmacopea proprio per le loro capacità medicamentose e hanno quindi una serie di sostanze chimiche che si sprigionano anche quando si è all'interno della chioma e che appunto io penso che un po' mi siano entrate nella pelle e ogni tanto mi richiamino a risalire per forza su. È un po' dipendente e credo che dopo le cose che ci ha detto le mamme all'ascolto d'ora in poi ecco, non sgrideranno più i bambini nell'eventualità che si arrampichino sugli alberi. Assolutamente non dovrebbero mai sgridarli, anzi dovrebbero incoraggiarli. Però molto, io ho letto un libro di suo figlio che anche lui è un arboricoltore, Pietro Maroè, ho letto La timidezza delle chiome, mi sbaglio ma lei ha cercato di scoraggiarlo inizialmente? sì, abbiamo anche litigato abbastanza. Come su mai? Questo proprio. Perché agli inizi pensavo che appunto non fosse un gran mestiere, nel senso è un mestiere bellissimo, però non sempre si riesce a viverci, insomma. Avevo perché detto dobbiamo spiegare la realtà delle cose, noi al giardino segreto decantiamo le piante, insomma, e lo facciamo convintamente, però c'è anche della fatica, anche immagino, no? Intorno a lavori come questi, fatica fisica. Io sono in un appartamento a Milano, per me tutte le immagini sono bucoliche, poi a confrontarsi invece con questo tipo di mestieri, c'è anche quello, immagino. Sì, è assolutamente un mestiere usurante, soprattutto se fatto in maniera continuativa, parecchio faticoso. Deve esserci proprio una passione enorme per poterlo fare e continuare a farlo per tanti anni. Cioè uno dice, ah che bello, lavorate all'aria aperta. Sì, però all'aria aperta anche c'è il freddo, c'è la pioggia, c'è l'umido, c'è la fatica, c'è il pericolo di restare appesi su una cosa, di usare la motosega. Anche quando si va nelle spedizioni ci sono serpenti, rane velenose, formiche, proiettili, o rami che si rompono. Non è così semplice. No, lo immaginiamo. Ci vuole passione, una passione che lei senz'altro ha trasmesso a suo figlio, ma non si accontenta perché lei vuole un po' contagiare gli altri con questo amore per gli alberi, tant'è vero che lei è presidente della Giant Trees Foundation e ieri è stata la festa degli alberi, abbiamo l'albero d'Italia 2020. Sì, diciamo non è l'albero più bello, più vecchio, più grande, è l'albero che è sostenuto di più dall'emozione e dalla popolazione. Questo è un concorso a livello europeo, in realtà ogni nazione lo fa, noi appunto come Giant Trees Foundation lo stiamo gestendo per l'Italia. Devo dire che ha riscosso un enorme successo, abbiamo ottenuto moltissime visualizzazioni, anche votazioni che vengono fatte online e quest'anno, abbiamo fatto la premiazione ieri, ha vinto il platano di Curinga, platano orientalis, enorme, bellissimo, presso Sant'Elia a Catanzaro in Calabria e si stima che abbia un'età di oltre 1000 anni e una circonferenza di oltre 12 metri. Facile trovare le foto, invitiamo a farlo. Stiamo parlando del platano di Curinga, quindi siamo in Calabria, Catanzaro. Ed è l'Italia Tree of the Year quest'anno e parteciperà quindi poi alla gara europea. Il prossimo anno quindi sarà titolato per partecipare alla gara europea, anzi lancio fin d'ora l'appello a votarlo e a sostenere l'albero italiano. Abbiamo in Italia veramente un patrimonio arboreo di tutto rispetto. Siamo quasi arrivati a 4.000 alberi monumentali censiti dal Ministero e quindi diciamo dobbiamo assolutamente cominciare a pensare di mantenerli in maniera mirata e con un alto senso del rispetto, perché sono degli alberi fenomenali. Dove vai albero, così in alto, che ogni germoglio è meno saldo alla terra e ogni foglia è meno forte, è destinata a cadere poco più su delle radici e tutte queste braccia spalancate verso il cielo. Il sito di Giant Trees Foundation, di cui Andrea Maroè è presidente, è gianttrees.it, dove trovare molto sugli alberi monumentali, tra i quali il millenario platano di Curinga, in Calabria, quest'anno Tree of the Year. E quest'albero ha un figlio, è cullato in una nursery in Emilia-Romagna, dove ci sono molti altri discendenti o gemelli dei patriarchi d'Italia. Alcuni cercano casa. A tra poco. Il giardino segreto. Albero. L'esplosione lentissima di un seme. Bruno Munari. dopo quello che abbiamo ascoltato sul valore degli alberi monumentali, non ci stupisce che in molti si siano illusi, dopo un articolo uscito su Repubblica, di potersi portare nel giardino di casa il figlio o un gemello di questi patriarchi, piantine attraverso le quali l'Associazione Patriarchi della Natura in Italia cerca di assicurare un futuro a questi capolavori verdi. Tra loro c'è anche il figlio del platano di Curinga, come ci conferma l'agronomo Sergio Guidi, il presidente dell'Associazione Patriarchi della Natura in Italia. Sì, non solo abbiamo il figlio, ma abbiamo utilizzato anche immagini di questo albero straordinario come immagini di copertina del nostro ultimo libro, che è Alberi Straordinari d'Italia. E nel progetto, oltre ad aver fatto la pubblicazione, noi ci siamo attivati come associazione per cercare di recuperare il germoplasma, soprattutto di quelle piante, non solo le più antiche, ma quelle più a rischio di estinzione, perché sono i gemelli dei grandi alberi della natura che noi riproduciamo. In alcuni casi abbiamo anche i figli, però la maggior parte sono i gemelli. Perché per il vostro libro avete scelto proprio tra tutti, perché ne abbiamo tanti e di bellissimi, il patriarca calabrese, il platano di Sant'Elia? Di piante straordinarie in Italia, è vero, ne abbiamo piante millenarie, plurimillenarie, come l'olivastro di Luras. L'olivastro di Luras ci avrebbe meritato benissimo di essere in copertina con i suoi oltre 3.000 anni. È un olivo selvatico che si trova nella Gallura a Tempio Pausania. Però le dicevo, oltre a questo di Luras, noi abbiamo avuto addirittura il dubbio di mettere, perché nel comune di Curinga c'erano addirittura due piante da primato italiano se non europeo. Oltre a questo platano di Curinga, proprio nello stesso comune, c'era un pioppo nero di dimensioni straordinarie. Era già sofferente, però non immaginavamo che morisse così in poco tempo, per cui eravamo indecisi fra le due piante. Poi, vista che questa è sparita e purtroppo non abbiamo fatto in tempo a recuperare il DNA, e quindi abbiamo optato per questo platano. Invece di molti altri alberi questo DNA l'avete recuperato, per cui avete, per così dire, sì, i discendenti. Sì, abbiamo fatto un grosso lavoro sia sulle piante da frutto, quindi patriarchi da frutto un po' di tutta Italia, e ultimamente ci siamo concentrati anche sulle piante di tipo forestale, quindi le grandi querce, pioppi, aceri e anche conifere, come ad esempio gli abeti, alcuni abeti della zona di Baia, che conserviamo nella nostra nursery che abbiamo nella zona qui di Cesena. E poi cosa succederà a questi alberelli che per adesso cullate nella nursery? Noi abbiamo avuto questo problema che il vivaio che ci ospita ha ceduto l'attività e quindi verrà probabilmente smantellato, e quindi adesso noi stiamo cercando un'altra collocazione. In parte le abbiamo già collocate, però abbiamo fatto anche un articolo su Repubblica.it per lanciare questo messaggio, e abbiamo avuto una cosa che mi ha fatto molto piacere: abbiamo ricevuto molte richieste da parte di privati che, anche se hanno piccole superfici, sarebbero disponibili ad ospitare anche solo uno o due alberi. Noi vorremmo evitare di frazionare tutto questo, ci piacerebbe di più riuscire a realizzare, come dire, dei piccoli giardini, dei campi conservativi dove il materiale genetico può essere tenuto insieme, magari suddiviso per specie. Adesso stiamo ancora un po' valutando. Le voglio dire un'altra cosa molto curiosa: siccome abbiamo fatto proprio poco tempo fa un passaggio televisivo e abbiamo parlato di questo cotone antico, è uno dei cotoni più grandi d'Italia che abbiamo qui in Romagna, ed è particolare perché quando i frutti sono maturi possono essere consumati addirittura senza neanche sbucciarli, perché non hanno i tannini che di solito hanno questi frutti. Bene, abbiamo ricevuto una mail dopo di questo servizio di questo signore di Bari, un signore anziano, che mi ha detto che cercava da una vita questa pianta perché ne aveva sentito parlare, e si è illuminato addirittura, si era emozionato quando ha visto questo filmato, ci ha contattati. E ovviamente noi non possiamo dire di no e spediremo questa piccolissima pianta, che però è gemella di un albero che ha una storia incredibile. Beh, ma io mi immagino che molti si saranno illusi di poter ottenere uno di questi patriarchi, perché soltanto a sentir parlare, ho citato già Andrea Maroè che abbiamo appena sentito, oppure insomma chiunque sia esperto di questi patriarchi racconta delle meraviglie su questi alberi. Guarda, io però le devo dire che con sorpresa, visto che tutti parlano di piantare alberi, lei pensi che il progetto 60 milioni di alberi, quindi Papa Francesco, Stefano Mancuso, Carlo Petrini, giustamente hanno intuito bene che gli alberi sono fondamentali. Eppure noi abbiamo ricevuto molte richieste, soprattutto da privati, pubblici, enti pubblici pochissime. Comunque noi non siamo la televisione, però un appello a questo punto anche agli enti pubblici lo possiamo fare. Noi siamo qua, vediamo. E noi questo lavoro lo abbiamo fatto non certo con una finalità di lucro, ma pensando proprio a recuperare questo germoplasma proprio per poter avere anche in futuro il materiale genetico sia per la selezione, ma soprattutto anche per poter poi produrre figli e quindi tutta una serie di piante anche per nuove piantumazioni, sia da frutto ma anche a riboschimenti forestali. Abbiamo già realizzato una serie di giardini e quindi una parte di queste piante già sono salve, però consideri che abbiamo addirittura alcuni gemelli di piante estinte in natura, come il melo di fondo del Trentino Alto Adige e un altro grande noce che ormai è morente, che si trova nel Parco dei Sibillini. Quindi queste piante, una volta che la pianta madre non c'è più, noi siamo gli unici ad avere questo materiale. Collezione rara e preziosa. Il nostro archivio sono quasi 400 piante, però sarebbe un lavoro che andrebbe continuato, non è pensabile che lo possa fare solo un'associazione, volontariato. E oggi è un momento anche complicato perché con questa pandemia, no? E questo sarebbe invece il periodo giusto per poter anche ampliare, perché purtroppo ci sono molte piante che hanno vissuto per secoli e secoli, perché in questi ultimi decenni si sono debilitate notevolmente, una parte di queste sono morte, per cui è veramente il momento di intervenire. Comunque il Ministero dell'Agricoltura adesso ha messo a disposizione l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con una mappa per trovarli. Allora, nella nostra pubblicazione noi abbiamo un archivio di oltre 13.000 esemplari in tutto il territorio nazionale. Il libro ne cita poco più di un centinaio, quindi è stata una scelta molto difficile. Però lei consideri che questo lavoro che noi abbiamo fatto, in poche parole, fa un po' il punto della situazione rispetto al censimento del corpo forestale con la pubblicazione fatta negli anni 80. E purtroppo parte di quelle piante oggi non ci sono più. La svolta green, noi ci occupiamo di queste cose degli anni 80, quindi per noi, anzi, ci fa piacere che finalmente ci sia questa sensibilità. Quindi qualcosa è cambiato in meglio? Beh, certo, guardi, sembra strano, ma anche il fatto di Greta Thunberg, che ha smosso questi giovani che adesso tutti sono concentrati nella voler piantare piante, giustamente, questo ci fa molto piacere. Però noi a questo vorremmo aggiungere un qualcosa di più, cioè non basta dire piantiamo alberi, perché se piantiamo alberi che magari abbiamo acquistato da un altro paese perché costano meno, magari ci portiamo pure le malattie, secondo me non abbiamo fatto un grande lavoro. Oppure se piantiamo alberi senza avere un progetto per poi mantenerli, senza scegliere quelli adatti. Come è successo spesso, quindi non basta dire piantiamo piante, bisogna vedere quali piante, dove vengono piantate, da dove proviene il materiale genetico e soprattutto chi poi le segue, perché se le piante vengono messe a dimora e poi nessuno ci guarda, non si va molto avanti. Assolutamente. Noi purtroppo non sappiamo bene. Tutto quello che lei dice è riassunto nell'ultimo libro di Francesco Ferrini, La terra salvata dagli alberi, per cui torno a ricordare questo titolo, per chi vuole avere almeno un'idea di come si dovrebbe davvero fare per portare a termine i progetti di cui si parla, che vengono ventilati. Io arrivo a dire questo, secondo me se dovessimo piantare 1.000 alberi di specie comuni nel luogo giusto, naturalmente, e anche solo 100 di queste, magari gemelli o figli di piante monumentali, secondo me abbiamo fatto un'operazione migliore piantandone di meno, più facile da seguire, ma con un grande valore genetico. Ma una volta che abbiamo perso le piante madri, questa è una perdita per sempre. Prima di salutarla, qualche patriarca ci era già citato. Vorrei che ci desse un consiglio su tutti per andare a raggiungere e trovare un albero che le è particolarmente caro. Guardi, io sono innamorato della Basilicata. Sul Pollino vivono piante straordinarie. Posso dire che secondo me una persona che ama la natura e che vuole scoprire un po' questo mondo non può mancare di andare sul Pollino, soprattutto nell'area di Serra Crispo, dove c'è addirittura una sorta di giardino chiamato il Giardino degli Dei, dove c'è un gruppo di questi pini loricati con delle forme incredibili. Guardi, sembra quasi di vedere degli animali, non sembra neanche piante, con queste cortecce particolari. Oltretutto è un luogo, secondo me, anche magico, proprio carico di energia. Quindi io, se dovessi consigliare qualcuno, andate a visitare questi patriarchi del Pollino. I pini loricati del Parco del Pollino in Basilicata sono lo spettacolo verde consigliato da Sergio Guidi, il presidente dell'Associazione Patriarchi della Natura in Italia, patriarchinatura.it il sito. È tutto, vi aspetto domenica prossima con il Giardino Segreto alle 15.30. Abbracciamo gli alberi, nel frattempo con loro non c'è rischio. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.